Yes, people, torniamo in diretta. Questo è Jolly Roger tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Settimana scorsa ho bucato io puntata, però degna sostituta è stata Chiara. Quindi potete riascoltare anche il podcast. Iniziamo questa nuova puntata. Ultimo venerdì del mese, ultimi giorni di scuola, quindi piano piano si avvicina ufficialmente l'estate e anche noi prima o poi arriveremo a conclusione di questa nostra terza stagione. E iniziamo oggi, iniziamo un po' a random, cioè raccontiamo quello che ci passa per la testa. Oggi è giornata internazionale contro il tabacco, quindi tutti i fumatori, me compreso, che ho comprato circa 10 minuti fa un pacchetto. Sono invitati a sensibilizzarsi al tema appunto del tabagismo e del discorso anche del non fumare o fumare in maniera coscienziosa, che non so cosa voglia dire. Detto questo, quindi per chi è intenzionato nelle buone azioni o altro, oggi non dovrebbe fumare, però appunto io ho comprato 10 minuti fa un pacchetto di sigarette e stiamo a posto così, proprio per iniziare la puntata a tema. Iniziamo qui alla mia sinistra, ho il mio amico Ciccio e il nostro amico Marco, ormai un speaker aggiunto, anzi non spoileriamo niente, ma piano piano lavoreremo a una cosetta interessante da proporvi il prossimo anno. E iniziamo questa puntata, passo subito il mic al mio amico. Prima un petro Ah, iniziale. prima inizio a salutare, ringrazi chi devi ringraziare, anche Marco fallo parlare e poi mandiamo il primo pezzo, anche tu hai ragione. Ciao a tutti, Matteo, saluto a tutti, va? Ciao a tutti. Allora, iniziamo questa puntata con il nostro primo pezzo che appunto porta il nostro amico Marco, così iniziamo proprio in maniera aggressive. Linkin Park. So faithless, lost under the surface. Don't know. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, puntata di venerdì, ultimo venerdì di maggio. Apriamo ufficialmente le porte all'estate, finisce scuola, ultimi sgoccioli di scuola. È finito anche il campionato di Serie A, sappiamo tutti com'è finito, anche se domenica ci sono le nostre partite. Quindi per questo periodo diciamo che anzi, la rubrica del nostro amico Matteo la modifichiamo, non la stoppiamo come altri anni, perché appunto ora gli passerò il mic e vediamo cosa racconterà direttamente lui. Io racconto nelle partite europee. Allora, europei io no, ho rogato alla partita alla play. Alla Rogato play o agli europei? no, alla play, P24. Regalato, ho rogato una partita portata in Italia contro Spagna. No, beh. Visto che sei organizzato e informato, quando iniziano gli europei? Il 4 giugno e da dire 4 giugno dove partire Quando iniziano gli europei? qui ci vero 14. Il 14 15 gioca l'Italia con contro io Albania. Albania Quindi e quindi la bandierina per me po' parte in Italia. chi è la tua candidata alla vittoria degli europei? E non parliamo di politiche, parliamo di calcio. Mi caccio po' Chi? Italia, vero? Secondo Matteo, l'Italia è una delle candidate alla vittoria degli europei. Vediamo Marco cosa ne pensa. Ecco, io. Acco? Oddio, quest'anno vince l'Europa per la seconda volta consecutiva, insomma, È tanta roba. richiede. Diciamo, moderiamo un po' l'Italia. No, perché ce ne stanno tante squadre interessanti, si sono rafforzate pure le altre. Noi vediamo quello che possiamo fare. Forse se devo scegliere, guarda, non proprio l'Italia, forse vado un po' più sullo scontato, la Francia, dai. Ah, tu dici la Francia, io dico i tedeschi della Tedeschia. Io direi che mi uguale Va bene, pure. quindi poi piano piano, visto che appunto di scommesse di Serie A, purtroppo la Serie A è finita, faremo qualche scommessa sulle partite degli europei, Sì, giusto Ciccio? sì. Quindi rimandiamo la nostra consueta rubrica del venerdì sul calcio, sui pronostici, li faremo dal 14 in poi. Tu ovviamente non ci sarai, perché dove sarai? Egitto. Hai capito? C'è chi se fa una vacanzetta così, che se fa una super vacanza. Che facciamo? Mandiamo un altro pezzo? Sì. Ok, e poi ritorniamo qui in diretta. Stripped down and torn apart, a little bit of rust, I'm still running. Counting miles, counting tears, twist the road, shifting gears, year after year, it's all or nothing. But I'm not home, I'm not lost, still holding on to what I got. Ain't much left, though there's so much that's been stolen. Still alive, still I'm broken. I'm still alive. tame. Wild horses on the plains. You can call me lost, I call it freedom. I feel the spirit in my soul. There's some Lord I can't control. I'm never giving up while I'm still breathing. I'm not home, I'm not lost, still holding on to what I got. Ain't much left, Lord, there's so much that's been stolen. I guess I've lost everything I've had. I'm not dead, at least not yet. Still alone, still alive, still unbroken. Still unbroken. Still unbroken. Like the wind, like the rain, it's all running through my veins. Like a river pouring down into the ocean. I'm out here on the streets, but I'm standing on my feet. Still alive, still alone, still unbroken. Torniamo in diretta, siamo partiti con pezzi belli carichi. Il nostro amico Marco ci regala sempre del buon metal, che ormai si ascolta sempre più di rado, visto che insomma va più di moda la trap, ma noi siamo vecchia scuola, quindi passiamo tutto quello che ci piace soprattutto. Ciccio, partite sono finite, allora l'altra rubrica è il meteo, vediamo... Ah no, giusto, la Champions League. Si chiude anche il capitolo champion. Devo dire, domani alle 21 c'è la partita portata Borussia Dortmund Real. Chi vince? Memi Real. Vince Real. Simpatizzo per il Real, giusto perché c'è il nostro amico Carletto Ancelotti. Però vediamo, però, insomma, vediamo. Chiara, vedete qua? Tua partita domani? Chi vince domani la Champion? Real o Bayern? No, Ancelotti. Io voglio... Quindi anche tutti pro Real, quindi bene così. Allora, abbiamo detto un po' di cose, gli europei, Champion, e adesso il medio. Calcio è finito e si va direttamente col medio. Vai Ciccio. Allora, medio domani c'è... domani bella giornata. Allora domenica pioggia. Piove e per questo motivo la piscina a casa di Matteo è ancora chiusa. E coppa di teppo. Ok, allora quindi tu cosa farai sabato? Io rappa domani, oh, ecco con mamma per fare la pasticciara, per un caffè. Quindi ci consigli di andare al parco, stare all'aperto? Sì. Sabato, domenica invece tutti a casa perché piove. Piove. Quindi che facciamo? Andiamo tutti a Porta di Roma? Sì. Ma no, anche no, No. preferisco stare sbragato sul divano. E torniamo, Ciccio. Abbiamo finito con le tue rubriche. Vuoi salutare qualcuno? Io Davide, da Davide. Salutiamo anche Davide. Passo il mic anche al nostro amico Marco che appunto. Se hai esigenze di saluti vari. Vabbè, no, vabbè, saluto, vabbè, pure tutta la mia famiglia, insomma, anche e un saluto anche a Carlotta che inizialmente doveva venire, invece alla fine non è venuta, quindi un saluto anche a lei, dai. Un saluto a Carlotta che prima o poi ritornerà. Matteo ogni settimana spera in questa sorpresa, ma prima o poi uscirà dalla torta come nelle migliori delle occasioni. Andiamo con un altro pezzo e poi torniamo qui in diretta con la nostra amica Alicetta e i suoi consigli di bellezza. Torniamo in diretta, questo è Jolly Roger, tutti tutti i venerdì dalle 17 alle 18. E cambio al mic, cambio anche di rubrica. Abbiamo parlato degli ultimi avvenimenti sportivi questo weekend, poi ci avviciniamo verso gli europei e non parliamo di votazioni. E passo il mic alla nostra amica Alice per i suoi consigli sulla bellezza e sulla mobilità di Roma. Allora, ciao a tutti, oggi vi parlerò di una crema per il viso di Argan, che si chiama Argan, però c'è un'altra parola prima di dire Argan, capito? Che parola sarebbe? Si chiama proprio come dire Garnier, capito? Ok, esatto, non facciamo pubblicità, noi facciamo pubblicità, ma siamo l'unica radio che non piamo manco un centesimo. Perché comunque è una crema proprio che assorbe come la come questa, comunque assorbe, ragazzi. La Garnier è vero che assorbe però, eh? Esatto, sì, sì, confermo, la Garnier assorbe. Allora, infatti questa crema viso della marca Equilibria, una crema leggera che si assorbe rapidamente senza ungere e si utilizza quotidianamente, idrata la pelle e non unge al suo interno, perché vuol dire che se non unge, vuol dire non dà l'olio secco, non dà l'olio e soprattutto non si appiccicano le mani. E non si appiccicano le mani e l'olio non va, perché l'olio sulla crema non va mai messo, ragazze, perché... Ok, senti, ma questa crema è più maschile o femminile? Questa è più maschile, perché soprattutto le ragazze, quelle del negozio, lo devono sapere. Questo lo sanno solo i negozi, quelli che fanno le creme buone, ovviamente. E dove possiamo comprare noi maschi questa crema? Allora, questo va bene sia per le femmine che per i maschi. Ma dove si compra? Al supermercato. Un prezzo accessibile oppure un patrimonio da investire? Al supermercato. Al supermercato, quindi vuol dire un prezzo accessibile. Quindi... Al supermercato perché la vendono, perché è una crema... commerciale che va. Consigliata. Consigliata. Esatto, no? Tu consigli molto spesso, mi ricordo, l'erbolario, come si chiama, giusto? L'erbolario, sì. Poi consiglio alla mia famiglia, delle goccette per la mia gattina. Ah, sì, ne parlavamo fuori onda, appunto, si diceva che, visto che iniziano a girare un po' di insetti di varia natura, è un problema anche per gli animali, quindi appunto questo è il periodo in cui si utilizzano i prodotti soprattutto per gli animali, tipo il Frontline per cani e gatto. Io volevo dire, visto che mamma non lo sa, visto che voi non lo sapete, mamma e papà, perché comunque devo usare il Frontline. Io devo usare il Frontline. Aspetta, il Frontline per la gatta. Per la mia gatta. Non lo devo usare io, lo so. Non pensate, che avevate pensato? Dillo un po', Ali, che avevate pensato? Ma guarda che lo so benissimo che quello che passate sulla gatta, Quello non va mai ingerito in bocca. Non va mai ingerito sulle mani, Esatto, infatti consigliamo... No, di solito io quelle poche volte uso i guanti, uso e getta. Ok, allora bisogna comprare le mani e quelle goccette lì. Ok, passiamo un pezzo e poi ritorniamo con i consigli sulla mobilità sempre dalla nostra amica Alice. Se partirò a Budapest ti ricorderai dei giorni in tenda, quella moonlight, fumando fino all'alba, non cambierai e non cambierò, fottendomi la testa in un night. Soffrire può sembrare un po' fake se curi le tue lacrime ad un rave. Sui denti blue jeans, non paragonarmi a una bitch così. Non era abbastanza noi sali sulla Jeep, ma non sono bravo a rincorrere. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Parlavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà. Mi basterà, ricorderò i gilene ripieni di zucchero, cambio il numero. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Dov'è la fiducia diventata rida? È come l'aria del Sahara. Mi raccontavi storie di gente senza dire mai il nome, nome, nome, come l'amico tuo in prigione. Ma a stare nel quartiere serve fottuta personalità. Se partirai, dimmi tua madre chi la consolerà. Maglia bianca oro sui denti, blue jeans, non paragonarmi a una bitch così. Non era abbastanza noi sali sulla Jeep, ma non sono bravo a correre. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Parlavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà. Mi basterà, ricorderò i gileni ripieni di zucchero, cambio numero. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Mi hanno fatto bene le offese, quando fuori dalle medie le ho prese, ho pianto. Dicevi ritornate nel tuo paese, lo sai che non porto rancore, anche se papà mi richiederà di cambiare cognome. Parlavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà. Mi basterà, ricorderò i gileni ripieni di zucchero, cambio il numero. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. 5 cellulari nella tuta gold, gold, gold, gold, gold. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. E ritorniamo in diretta, siamo passati appunto, passiamo anzi dai consigli di bellezza ai consigli sulla mobilità di Roma, che in questo periodo vede tanti cambiamenti dovuti un po' a vari eventi, un po' all'avvicinarsi di quello che sarà il Giubileo 2025. Allora, Alicetta, che consigli diamo ai nostri ascoltatori che usano i mezzi pubblici di Roma? Quelli che allora, volevo dire, allora, in tutto alla mia amica Giorgia che prende il treno, il Trenitalia alta velocità, che la mia amica, volevo farti salutarla. Ciao Giorgia. Ciao Giorgia, come stai? È tanto che non ci vediamo, mi manchi tanto. Vai. Allora, volevo intanto dirvi questo. È stata inaugurata questa mattina presso la piazza esterna della stazione metropolitana B1 con Carrozza, l'opera che Roma Capitale ha dedicato il Giro d'Italia, la grande corsa a tappe conclusasi, è una parola un po' difficile da dire. Conclusasi. Vai avanti. Cioè, non la so. Vedi, non la so. Conclusasi. Ieri con la vittoria del campione sloveno Todari. Può giocare targata Luca Leonte, artista romano, alla seconda collaborazione con ATAC Roma, capitale del RCS Sport. L'opera è stata svelata alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e del neo vincitore del Giro d'Italia, Tadej Pogačar. Questo non lo so. Non lo so di manco io, è troppo. Lo so. È troppo straniero. Lo so. L'inquadrazione del murale ha visto inoltre la presenza del direttore generale di ATAC Alberto Zorzan, dell'assessore alla mobilità Eugenio Patanè, del presidente del municipio Terzo Paolo Emilio Marchionne, dell'amministratore allegato RCS Sport Paolo Bellino. Perfetto, quindi è un'opera d'arte che è visibile in quel di Concadoro, appunto, è conclusione del, quindi di quello. Diciamo che voi operai avete chiuso la metropolitana metro B1. No, veramente stiamo a parlare dell'opera d'arte che hanno. Non a... la metro Concadoro, diciamo. No, c'è l'opera d'arte in esposizione a Concadoro. Sì, però in questi casi, diciamo, in questi casi posso dire una cosa. In questi casi, quando c'è questa cosa, quando succedono queste cose grandi e lunghe, chiudono le metro, perché le fanno magari nelle metro, magari le chiudono, lo sa pure Piero. Eh sì, io sono un grande fruitore dei mezzi pubblici di Roma. Posso dirlo a tutti che li chiudono, perché loro spesso lo fanno spesso. Ok, però questa è appunto è stata chiusa per una cosa abbastanza interessante, che era Chiara, appunto sul Giro d'Italia. Chiara? Chiara, chi è Chiara? È fuori l'opera d'arte. Ah, sta fuori il parco di Concadoro, quindi fuori la piazza. Vabbè, cioè ragazzi, io non passo da Concadoro da una settimana, quindi cioè, che ne so. Però a questo punto ci passerò apposta a piedi e prenderò la metro per vedere quest'opera d'arte. Esatto. Perfetto. Allora, noi intanto salutiamo. Allora, io saluto tutti gli operai che stanno lavorando. Operate bene e sperando che... Anzi, volevo dire una cosa. Io volevo dirvi una cosa. Dovete mettere... Allora, io vi consiglio e consiglio anche ho consigliato anche già Pietro il Frontelaine per i gatti. Perché, ah sì, lanciamo un messaggio di sensibilizzazione per questa visto cosa. Che, allora, ragazzi dell'AMA, perché visto che qua in giro che girano dei gatti anche, non solo cani abbandonati, che sono poveri anche pieni di cose strane, pieni di malattie anche di pieni quindi di... diciamo al comune di Roma di prendersi in carico gli animali che stanno per strada, perché anche se sono malati e hanno dei pulci bisogna portarli al veterinario subito, immediatamente, anche di corsa, perché se sono, anche se stanno bene, però comunque perché il polline gli fa male, ma il polline così lo togliete da mezzo, perché a noi ci fa male respirarlo. Okay. Dovete pulire Roma. Roma è piena di, anche guarda, vi volevo dire, guarda, non puliscono mai a Tiburtina, soprattutto, posso dirlo? Sì, sì, diciamolo, che sono, però non è colpa di chi non pulisce, ma anche colpa di chi sporca. Ecco, perché chi lavora a Tiburtina e chi sporca e chi sozzozzi, gli tagliamo le mano. E facciamo la multa, perché la polizia se li becca gli fanno la multa, perché comunque giustamente a proposito proprio per il giubileo, ora ti do questa info che è l'unica cosa che so, stanno per essere assunti mi sembra un 300 nuovi vigili urbani, i famosi pizzardoni. Ecco, infatti volevo dire questo, anche volevo dire questo, Pietro, però è importante, guarda, è importante pulire tutti i secchioni, perché puzzano da morire. Esatto, quindi questo è un consiglio. Pulite per Roma, perché purtroppo ci sono certi secchioni che non pulite. Perfetto, okay? Ora salutiamo e mandiamo un pezzo. Ciao Ama, buon lavoro a voi. Alice ama l'ama. Ecco, posso dire, ecco, Lo dico chiaramente? Che ci ha, che l'ama ci ama. Andiamo con un altro pezzo e poi ritorniamo con il nostro amico Luchino. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Abbiamo raccontato appunto con Alice i suoi consigli di bellezza e un lungo discorso sull'ama, stazione di Conca d'Oro. Insomma, una bella argomentazione. Ora di rito passiamo il mic al nostro amico Luchino. Buonasera a tutti, sono Luca, benvenuti qui al Jolly Roger e vi racconterò oggi della partita del torneo che stiamo facendo a scuola del pallavolo. Oggi abbiamo affrontato il primo informatico. Di che scuola fai prima? Faccio il CHOFS FP Lazio, un istituto che insomma sta per tutta Roma. E noi abbiamo fatto questa partita grande, abbiamo dominato al cambio campo, al secondo match. Ho dominato con ben 3 ace, anzi 4 ace. L'ho schiacciati e adesso siamo in semifinale. Cosa vuol dire ace? Ace significa punto diretto. E perciò io ho dominato, sono stato un ottimo concorrente e mi auguro che vinciamo questa finale. Anzi, la finale non è tra studenti e studenti, ma è tra studenti e professori, proprio come a calcetto. Perfetto, Luchino. Quindi, questo perché anche tu sei in direttura di arrivo con la scuola. E pronostici per l'estate, cosa farai visto che appunto ormai è rimasta scarsa una settimana fra Luschi e Lambruschi, diventano 3 giorni di scuola e 2 di cazzeggio. Cosa farai quest'estate? Hai già programmi? Allora, rimanete tutti a bocca aperta perché ho programmato una cosa bellissima al stabilimento Mediterraneo di Fiumicino, Roma. Ho progettato, diciamo, una piscina tranquillamente bega con fiumi, laghetti, castelli enormi, ovviamente i lavori saranno manutenuti da me a Liciotta, visto che lei è appassionata dell'ATAC. E ovviamente noi faremo questa... Quelli dell'ATAC. Certo. Castelli, vabbè, ok. Dell'ATAC. L'acqua passerà direttamente dagli scogni, finché non arriverà fino all'acqua alta faremo un grosso ruscello. E ovviamente poi raccomanderò tutto io. E poi, visto che ci siamo, costruirete anche il ponte sullo stretto Ostia-Messina, no? Sì, ci metteremo all'incirca 4 giorni di lavoro, facili facili, e Chiara mi darà una mano col cemento. E certo, ovviamente, ci raccomanda di non passare su quei ponti, ovviamente. Quindi, torniamo a cose più reali e concrete. Lavorerai? Viaggerai? Farei delle vacanze? Hai già progettato qualcosa? Ah, tenetevi pronti, perché io forse lavorerò al bar a Porta di Roma, Cioccolati Italiani. Ho chiesto a mia madre, che siccome là c'erano dei amici di mio fratello, mi ho detto, mo vorrei fare dei soldi, e mia madre me l'ha proposto. E perciò ho detto, ok, mo mando il curriculum, mando tutto quanto e vedo se mi accettano. Ovviamente farò soltanto mattina i primi turni, poi farò come si deve. E mi auguro che lavorerò, così almeno darò una mano a casa con tanti soldi. Vabbè, pensa anche agli amici, come si dice qui, voglio dire, non è che navighiamo nell'oro, però appunto, pensa agli amici. Detto questo, passiamo un pezzo e poi ritorniamo con le sue consuete rubriche. So sweet, so many ways. I gotta get what's coming. So give it up. E ritorniamo in diretta. L'ultimi minuti di questo ultimo venerdì del mese. Passo appunto il mic al nostro amico Luchino, che con le sue consuete rubriche porta a termine quella che è gli ultimi minuti di Jolly Roger. Offerte Pewex. Tonno romane a 1,99 euro. Coca-Cola a 2,50 euro. Tonnarelli surgelati a 3,50 euro al chilo. Pewex, Pewex, qualità conveniente sempre. E qua manco ci danno all'ira, giusto Pietro? Confermo, confermo. Ma manco un cioccolatino ci danno. No. E ora passiamo un piccolo pezzino e poi facciamo al volo le battute e salutiamo. Torniamo in diretta, siamo alle ultime battute finali di Jolly Roger, chiudiamo in bellezza con le nostre, con le battute del nostro amico Luchino e vi diamo appuntamento appunto a settimana prossima. E prima delle battute, vedo nel frattempo, già ormai è passata una mezz'ora dall'arrivo del nostro amico Lucone, e ora appunto gli passerò il mic per i suoi cordiali saluti e ringraziamenti. Dobbo aiuto. Perfetto. Ciccio, come stai? Bene. Beh, volevi salutare qualcuno? Prima ci ha già spoilerato che presto partirà per la Calabria. Quindi volevi salutare chi? Elena. Elena, poi pure la nonna. Sì. Esatto, salutiamo nonna che si chiama? Rita. Rita, quindi salutiamo nonna Rita. Vuoi salutare qualcun altro? Alberto. Alberto, perfetto. Che è? Di Massimo. No, che di quale squadra, visto che tu ogni è interista, un grande sognatore anche lui, però quest'anno ha vinto lo scudetto. E quindi passiamo il microfono a Luchino e concludiamo questa nostra puntata di Jolly Roger. Cosa fa uno sputo su un ponte? Saliva. Perché il pollo attraversa la strada? Perché deve andare a casa il tonto. Toc toc. Chi è? Il pollo. Perché una giraffa non si gira mai? E che se gira fa? Detto questo, salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche che ci seguono e ci supportano, così come Gemini Network e Radio Grad. Ci sentiamo settimana prossima. Buon weekend a tutti e tutte. Guida fino alla mattina la luna che mi accompagna fino a te. In montagna, al mare, in una laguna, se ti trovo non è fortuna, ma solo l'inizio dell'estate. Le nostre litigate ce le paghiamo a rate, dai. Adesso serve un posto un po' meno caldo e una casa per noi soltanto. E tu sai dov'è, dimmi dove, quando. Quando